Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 8 minuti. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666, il numero per gli SMS. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo della vicenda dello IOR. Innanzitutto, la Banca Vaticana, come sapete, ieri ci sono state le dimissioni di Ettore Gotti Tedeschi, in realtà nella sostanza cacciato via. Gotti Tedeschi ha detto, tra l'altro, che non vuole parlare, che è indeciso tra il difendere la sua reputazione e il rischio di far del male con le sue parole al Papa, e vedremo di capire un po' meglio che cosa c'è dietro, perché ci sono dietro, naturalmente, essendo la Banca Vaticana, anche delle questioni economiche, in una giornata nella quale, come sapete anche dai giornali radio, sulla questione della fuga dei documenti dal Vaticano ci sono state altre novità importanti, e ci collegheremo con il collega che di queste cose si occupa per il Sole 24 Ore per farci spiegare qualcosa di più. Poi, naturalmente, come sempre, la crisi e l'euro. Crisi e l'euro che continua a portare una forte incertezza nei mercati, o quantomeno una certa volatilità, continue oscillazioni nel corso della giornata di oggi. Poi, alla fine, sembra che la tendenza finale sia positiva, con il FTSE MIB che guadagna 0,5 punto percentuale in questo momento, il FTSE All Share lo 0,44%. Positive anche le altre piazze finanziarie europee. New York lievemente negativa, ma veramente di poco. Il Dow Jones cede lo 0,09%. L'euro che è sceso sotto quota 1,25 e poi è risalito. Tutto questo con le notizie secondo le quali, pubblicate dal Financial Times, ma insomma in realtà confermate dai comunicati ufficiali, che alcuni importanti fondi stanno uscendo dagli asset in euro, dalle attività appunto in euro. Anche di questo parleremo più avanti con il responsabile italiano di uno di questi grandi fondi. E poi ci occuperemo di Spagna, per rimanere in tema di crisi dell'euro. Ci sono due notizie oggi che dominano. Una è Bankia, la famosa banca spagnola in difficoltà, che avrebbe bisogno di altri 15 miliardi di euro, a quanto pare, e poi la Catalogna, regione autonoma in gravissime difficoltà economiche, che chiede sostanzialmente nuovi aiuti. Ascolteremo poi anche alcuni dei passaggi più significativi delle parole pronunciate ieri dal Presidente del Consiglio Mario Monti a Piazza Pulita, intervistato a Piazza Pulita ieri sera, e infine toccheremo il tema del codice antimafia. Sono arrivate delle modifiche in Consiglio dei Ministri oggi, ci dovrebbe essere qualche snellimento e delle modifiche anche per le imprese. Tutto questo tra poco. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve. Iniziamo come sempre dalle materie prime. L'oro ancora in calo a $1,554,4 l'oncia, un calo dello 0,3%, e il petrolio anche aperto in calo a New York a $90,45 al barile, un meno 0,2%. Per quanto riguarda l'euro, ve lo abbiamo detto, è sceso brevemente sotto $1,25 proprio dopo la diffusione della notizia della Catalogna, che appunto ha detto di avere difficoltà ad accedere ai mercati dei capitali, e poi è risalito lievemente, adesso quota 1,2524 contro dollaro. E a proposito di valute, c'è un nuovo intervento del Dipartimento del Tesoro americano in merito a quella cinese. Lo yuan, ha detto, è ancora significativamente sottovalutato. Come si diceva, c'è una sorta di fuga dagli asset in euro per alcuni dei maggiori fondi europei, sulla scia proprio dei crescenti timori per un'eventuale uscita della Grecia dall'area euro. Allora, Amundi, uno dei maggiori fondi europei, e Threadneedle Investments, colosso inglese, hanno ridotto negli ultimi giorni la propria esposizione. Il fondo americano Merck Investments ha addirittura tagliato tutta la propria esposizione alla moneta unica. Abbiamo venduto il nostro ultimo euro il 15 maggio, ha detto all'FT, al Financial Times, Axel Merck, che è il Chief Investment Officer. Siamo preoccupati del processo disfunzionale. Come si diceva, la Catalogna ha chiesto aiuto. La regione autonoma più ricca del paese iberico è a corto di liquidità. Non ci interessa come faranno, ma alla fine di questo mese dobbiamo fare dei pagamenti. Così si è rivolta a Madrid il presidente catalano Artur Mas durante un incontro con la stampa estera. Un'economia non può riprendersi se non paga i debiti, ha detto. E poi c'è la questione di Bankia, lo stop alla Borsa di Madrid per il titolo, dopo le indiscrezioni secondo le quali l'istituto si appresterebbe a chiedere al governo spagnolo aiuti per oltre 15 miliardi di euro. Tra l'altro Bankia oggi dovrebbe presentare il proprio piano di ristrutturazione. L'istituto, parzialmente nazionalizzato circa 2 settimane fa, ha già ricevuto da Madrid 4 miliardi e mezzo di euro. E tra l'altro già si parla di una fuga dei risparmiatori da Bankia, se non proprio con le caratteristiche di una fuga, poco ci manca. Per quanto riguarda casa nostra, andiamo sul rendimento e sull'andamento dei nostri titoli di Stato a 10 anni, che come sapete monitoriamo sempre. Lo spread in rialzo abbastanza netto a 428 punti base, lo spread, ossia la differenza di rendimento rispetto ai titoli di Stato tedeschi corrispondenti, ossia 10 anni, mentre il rendimento dei nostri titoli di Stato a 10 anni è al 5,65%. E però forse qualcosa si muove, forse. Se, come scrive lo Spiegel, settimanale tedesco, oggi il governo di Berlino sta lavorando intensamente per dare un suo concreto contributo agli impulsi per la crescita e l'occupazione in vista del prossimo Consiglio europeo che sarà su questo tema. Si parla di un piano in 6 punti. Si prevede tra l'altro l'istituzione di zone franche nei paesi colpiti dalla crisi per attrarre gli investitori stranieri attraverso agevolazioni fiscali. Il piano prevederebbe inoltre che i paesi in crisi trasformino il loro mercato del lavoro sul modello tedesco, rendendolo più flessibile. Sarà intanto dopo il 17 giugno l'incontro, il quadrilaterale a Roma, che vedrà protagonisti Angela Merkel, cancelliere tedesco, ci sarà Mariano Rajoy, il premier spagnolo, il presidente francese François Hollande e naturalmente Mario Monti. Oggi l'ufficialità che la cancelliera Merkel aderisce volentieri all'invito di Monti. A proposito di Bruxelles, intanto la Commissione europea ha fatto il primo passo formale nei confronti dell'Argentina per ottenere in sede di WTO, che è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'abolizione delle restrizioni alle esportazioni europee nel paese sudamericano. Il portavoce dell'esecutivo comunitario dice che l'iniziativa non è legata al caso Repsol. Come sapete, la controllata argentina di Repsol è stata recentemente nazionalizzata dall'Argentina. Repsol è un'azienda petrolifera, la principale azienda petrolifera spagnola, e però il sospetto naturalmente resta che la mossa sia dovuta a questo. L'Istat ci comunica oggi, veniamo dunque all'Italia, che si restringe il divario tra salari e prezzi. Ci vuol poco perché Parliamo di aprile, mentre a marzo si era registrata la differenza più forte dall'agosto del 1995. La forbice tra l'aumento delle retribuzioni contrattuali orarie più 1,4% e il livello dell'inflazione più 3,3% su base annua tocca comunque una differenza di 1,9 punti percentuali, che non è per nulla poco. Nel frattempo il ministro del welfare Elsa Fornero dice che il nostro costo del lavoro è già molto elevato e se avessimo la possibilità dovremmo ridurlo, ma non ce l'abbiamo. E restano in primo piano le parole della Fornero, le parole di Fornero sulla necessità di adeguare la normativa che riguarda i dipendenti pubblici a quella che riguarderà i dipendenti privati, una volta approvata la riforma del mercato del lavoro, ossia una maggiore semplicità dal lato dei licenziamenti. Parla Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Non ho mai visto un ministro del lavoro in tutta Europa che inciti ai licenziamenti. Dice Bonanni, se vuole occuparsi della pubblica amministrazione farebbe bene a indicare come si ristrutturano le istituzioni e le amministrazioni pletoriche in modo da utilizzare bene il personale. E siamo a vedere alla nostra rubrica cos'è questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Iniziamo da Goldman Sachs, che ha superato indenne la prova degli azionisti, forse perché gli occhi sono puntati invece su JP Morgan, che come sapete ha appena perso in operazioni di trading piuttosto complesse un paio di miliardi di dollari. Comunque, ha superato indenne la prova degli azionisti. Tutti i membri del CDA sono stati rieletti e i compensi dei manager approvati. A differenza delle precedenti occasioni, fuori dalla sede regnava la calma, poche persone manifestavano contro l'istituto. Forse è stato appunto il caso JP Morgan a facilitare tutto questo. L'assemblea ha approvato la proposta del CDA di ridurre il compenso 2011 dell'amministratore Lloyd Blankfein, che riceverà 12 milioni di dollari, una cifra inferiore ai 23 milioni del numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon. E chissà quanto lo rimarrà a questo punto, il numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon, e 15 milioni dell'amministratore delegato ai Citigroup, Bikram Pandit. Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Una storia interessante da Detroit. Detroit vuole dimezzare i lampioni. Secondo gli ultimi dati, la popolazione della città, anche in seguito alla crisi dell'auto, si è ridotta del 60% dal 1950 ad oggi, quindi non solo in conseguenza della crisi, naturalmente. E quindi, per far fronte alla crisi anche sul fronte delle casse comunali, i funzionari municipali vogliono concentrare i cittadini in determinati quartieri e per risparmiare illuminare solamente le zone dove la gente vuole vivere. E i lampioni sono al momento 88.000, passerebbero a 46.000. Sempre 349-238-6666 per i vostri sms, anche per le vostre domande. Siamo a parlare, come primo argomento di giornata, dello IOR, perché il Consiglio di Sovrintendenza dell'Istituto per le Opere di Religione ha adottato ieri sera all'unanimità un voto di sfiducia nei confronti del presidente Ettore Gotti Tedeschi per non aver svolto, così recita il comunicato, per non aver svolto varie funzioni di primaria importanza per il suo ufficio. Devo dire, un comunicato molto pesante, insomma, noi che siamo abituati a quelli oggettivamente un po' più felpati, tanto del mondo della finanza quanto dello stesso Vaticano, abbiamo provato un certo stupore. Dice lui: sono dibattuto tra l'ansia di spiegare la verità e il non voler turbare il Santo Padre. Il mio amore per il Papa prevale anche sulla difesa della mia reputazione vilmente messa in discussione. Allora saluto Carlo Marroni, collega del Sole 24 Ore. Carlo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Che è in collegamento con noi dagli studi di Roma. Brevemente, lo IOR è la banca del Vaticano, quindi non è che ci stiamo occupando di questioni puramente politiche o non solamente politiche. La banca del Vaticano dispone di un patrimonio di 6 miliardi di euro. Risponde anche se non si sa quanto è esattamente, sì, anche se esattamente si stima, diciamo. Si stima e si stimano anche i 33.000 depositari circa, immagino. Sì, esatto, questo è emerso recentemente in un libro. Bisogna essere, per aprire un conto bisogna essere un religioso, una suora, un nunzio, un dipendente della città del Vaticano, un diplomatico presso la Santa Sede o chi ha ricevuto onorificenze pontificie. Come sapete, attraverso IOR è passato anche un pezzo della storia italiana, un pezzo oscuro della storia italiana. Anche recente. Detto ciò, Carlo, io vorrei capire da te, aiutaci con questo genere che sta cadendo quasi in disuso, che è quello del retroscena, e aiutaci a capire che cosa è successo. Anzitutto qui, retroscena, qui è molto sulla scena, anzi il salto di qualità è questo, se possiamo dirlo così. Per la prima volta, lo dicevi bene te, c'è stato un comunicato di inconsueta durezza contro un laico che però era stato nominato non più tardi 3 anni fa al vertice della Banca Vaticana dal segretario di Stato, il primo ministro del Papa, il cardinale Bertone, condivisa quindi dall'establishment in questo momento che comanda in curia. Era stato messo nel settembre del 2009, piena fiducia, è durata questa fiducia fino a sostanzialmente l'estate scorsa, quando sulla vicenda del San Raffaele, ricordiamo che la crisi del San Raffaele si è intrecciata con il Vaticano è intervenuto, l'ha sostanzialmente commissariato promettendo di metterci del denaro e acquisendone la proprietà, però questa era un'idea del segretario di Stato, del primo ministro, che ripeto ha quasi pieni poteri, però evidentemente non è così, perché poi il Vaticano, la Chiesa è un'organizzazione verticistica, perché comanda uno e giù per i rami tutti gli altri, però poi ha molte anime, e ci furono delle anime che contrastarono questa operazione. Lo stesso Gotti Tedeschi, presidente dello IOR, manifestò non pubblicamente la sua contrarietà, la perplessità di investire 250 milioni di euro nel San Raffaele. Bertone e i suoi uomini volevano invece portarlo in fondo, poi non è andato in fondo, il Papa si dice sia intervenuto per sterzare questa operazione, sappiamo che poi l'ha acquistata l'imprenditore milanese Rotelli e la questione è finita lì. Però già da allora, ecco, diciamo così, sono emersi dei contrasti proprio sulla gestione dell'istituzione e quindi del denaro del Vaticano. Ora, quando diciamo banca, vorrei chiarire solo questo: lo IOR non presta soldi, a differenza di una banca, non fa mutui, però ecco, diciamo, accetta depositi da parte di tutti quelli che attorno al Vaticano ruotano, quindi le congregazioni religiose. Stiamo parlando anche di cifre importanti che poi sono destinate alle missioni invece che alla costruzione di ospedali o altre cose nel terzo mondo o dov'è. Però ecco, diciamo, questa gestione poi alla fine anche, diciamo, non è solamente la gestione di depositi, è anche, diciamo così, la gestione del denaro proprio della Santa Sede, il patrimonio della Santa Sede, che poi è sparso in 2 o 3 istituzioni, tra cui anche lo IOR. Questo è un po', diciamo, lo scenario da cui veniamo un anno fa. Poi è successo un fatto. Brevissimamente ricostruiamo: c'è stata un'inchiesta giudiziaria nel 2010 della Procura di Roma, che sequestrò 23 milioni di euro poi dissequestrati e mise sotto inchiesta il presidente Gotti Tedeschi, quello che è stato dimissionato ieri, e il direttore generale, a seguito di riciclaggio. L'accusa era riciclaggio, un'accusa pesantissima. A seguito di questa inchiesta, il Papa proprio e i suoi, diciamo, aiutanti l'hanno varato una riforma delle finanze vaticane. Questo stiamo parlando della fine del 2010. Una riforma che istituiva un'autority, una sorta di Banca d'Italia del Vaticano, che garantiva la trasparenza. Una istituzione molto importante, e anche era stata salutata questa norma come un atto di grande anche coraggio. Questa norma, diciamo, è entrata in vigore circa un anno fa, perché poi ci ha messo qualche mese, però a gennaio scorso, quindi stiamo parlando di 8 mesi dopo, è stata sostanzialmente svuotata da una nuova legge che in qualche modo svuotava. E questo è stato il contrasto. Hai l'impressione che abbia pesato anche questo? Cioè, assolutamente sì. Al di là dell'indagine del fatto che si è indagato per riciclaggio Gotti tedeschi, quella è una questione finita sostanzialmente, poi dobbiamo dirlo. L'impressione è che invece Gotti tedeschi da questo lato spingesse perché questa sorta di authority entrasse in funzione regime. Ho detto che era indagato perché da lì che è nato tutto, sì, diciamo, la riforma, però di fatto poi è stato riconosciuto che non c'era nessun riciclaggio, non è stata ancora archiviata, ma di fatto non c'è nessun riciclaggio. Gotti tedeschi spingeva affinché le norme sulla trasparenza fossero il più possibile aderenti agli standard internazionali. E la prima riforma, quella di fine 2010, in questo modo le rispecchiava abbastanza. La controriforma di quest'anno, voluta da Bertone, si dice, ha svuotato un po' questo contenuto. E lì la guerra, il braccio di ferro, si è consumato molto anche su questo. Questo è quello che si sa, e poi all'interno di vicende così se ne intrecciano molte altre, ci sono variabili di correnti interne, lotte di potere, insomma, in cui magari uno come Gotti tedeschi, ma ci si trova nel mezzo, magari senza sapere da dove sono iniziate. Qui stiamo parlando del Sacro Collegio, non stiamo parlando di una bocciofila, per cui gente è abituata anche a trattare cose ben, ben grosse. Quindi la guerra è stata su questo nello specifico, perché poi non è solo una questione interna al Vaticano, sulla questione della trasparenza delle operazioni finanziarie è intervenuto il Consiglio d'Europa, ci sono l'OCSE, il GAFI, cioè organismi internazionali importanti che dettano le regole a tutti i paesi del mondo, quindi anche il Vaticano che voleva adeguarsi, almeno a parole, a queste regole, e poi alla fine si è scontrato perché non si era adeguato. Questo si è consumato molto, ma è evidente che poi non c'era più, come dire, comunanza di intenti, non c'era più sintonia. Questi sono posti estremamente fiduciari. Se una persona non riscuote più la fiducia per svariati motivi, è chiaro che si rompe poi il rapporto di fiducia. Chiaramente. E si arriva, naturalmente ci si arriva, come dicevi te prima, magari in forme molto morbide. Questa volta è stata in una forma molto violenta. Sì, sì. Dura quantomeno, ecco, la violenza, dice, insomma. Dice tra l'altro il Cardinal Bagnasco: la trasparenza in questa vicenda è un valore su cui dobbiamo convenire, tutti gli attori in gioco vogliono questo e perseguono questo. Da quello che ci hai detto forse insomma non è esattamente vera l'affermazione. Allora, diciamo, naturalmente. Però poi Bagnasco in questa vicenda non c'entra, perché Bagnasco, sì, è la Chiesa italiana, non è la Santa Sede. Sì, sì. Sembra una precisazione di dettaglio, ma non lo è. Nel senso che la Chiesa italiana non governa lo IOR, lo governa la Santa Sede, anche se poi sono sempre degli italiani il più delle volte. Però ora non possiamo affermare che chi ha mandato via Gotti tedeschi voglia l'opacità o voglia nascondere, perché questo non possiamo affermarlo così. Sappiamo che si è consumato un rapporto di fiducia, non c'era più, e su questo è stato mandato via il presidente. Ora poi, diciamo, forse intorno a questo gira altro, non è che necessariamente sia solo questo. Diciamo, si era rotto il rapporto di fiducia consumato su vari punti. Questo è stato l'ultimo, sicuramente il principale, ma anche altri, come dicevo, il San Raffaele, ma anche, sì, altri passaggi. Allora, ti porto su una questione che, se vogliamo, è meno economica, ecco, però vorrei capire se ha anche un intreccio con questa, che è la notizia di oggi, questo arresto di quello che viene brutalmente chiamato il maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele, da parte della Polizia Vaticana, per capire se c'è qualcosa a che fare con tutto questo e se questo giro di fughe di documenti, delle quali molto abbiamo letto, abbiamo sentito parlare sui giornali, c'è anche un libro di Nuzzi su questo, ha avuto un ruolo. Vorrei capire se le due cose sono in qualche modo collegate, la vicenda IOR e questa fuga di notizie. Diciamo che è una strana coincidenza, ecco, perché a distanza di 12 ore accadono due fatti così clamorosi, difficile non pensare che non siano legati. A Gotti tedeschi, queste sono, come dire, delle indiscrezioni raccolte, non c'è nessuna dichiarazione pubblica, è stato imputato più o meno direttamente anche di essere stato lui a sua volta un fornitore di documenti esterni al Vaticano. Dobbiamo ricordare che c'è stato il libro che ti citavi ora di Nuzzi, Sua Santità, ma nel frattempo a marzo ne sono usciti tantissimi documenti proprio sulle guerre interne relative alle questioni finanziarie. poi giornali, Il Fatto Quotidiano, Libero, anche noi stessi abbiamo pubblicato dei documenti che erano comunque usciti dal giro Vaticano, ed è anche questo è stato un caso primo nella storia. Ormai non fa più quasi notizia che escono documenti vaticani, ma 3 mesi fa sì, perché era la prima volta. E da allora il Papa istituì, un mese dopo circa, quindi parliamo di aprile, una commissione interna, una sorta di commissione di indagine presieduta da un cardinale molto importante, un cardinale dell'Opus Dei, molto diciamo ferrato in questioni giuridiche, a indagare su chi fosse, diciamo così, come mai questi documenti uscivano. Naturalmente poi l'indagine vera e propria l'ha fatta la gendarmeria, la polizia vaticana, quella che controlla quello che accade all'interno delle mura leonine, e evidentemente questa ulteriore uscita di documenti recente del Libro, rimasto segreto fino al giorno dell'uscita, quindi fino alla settimana scorsa, il caso Ior, che ha fatto deflagrare evidentemente una serie di questioni. Ora, a Gotti, ripeto, è stato in qualche modo imputato che siano stati anche lui il fornitore, ma su questo non ci sono conferme o prove, ma non ci sono neanche, diciamo, dichiarazioni ufficiose. È stato detto così. Nel caso specifico, oggi è stato arrestato dalla gendarmeria, quindi all'interno. Non sappiamo se è in qualche segreta sotto il Palazzo Apostolico, oppure semplicemente se è in qualche stanza sotto chiave. Questo giovane, perché ci sono anche delle foto che girano, giovane addetto all'anticamera del Papa, un maggiordomo vero e proprio, nel senso quello che poi si vede nei film, sì, che gli porta i vestiti, ed è una figura, diciamo, molto importante, perché vive accanto al Papa. Sì. E per chi lo conosce, io ho parlato stamattina con delle persone che lo conoscono, descrivono una persona mite, padre di famiglia, diciamo che ha una figura che non sembrerebbe così un tramatore, però tutto, insomma, ecco, difficile dirlo. Tutto sappiamo, è possibile. Ecco, chiariamo, il Vaticano ufficialmente non ha confermato che è lui, ha confermato che è stato arrestato una persona. Poi tutti, insomma, poi ci sono sostanzialmente, però non ci sono smentite che non sia lui. Ecco, quindi verosimilmente è lui la persona interessata. Non stiamo dicendo che è colpevole, naturalmente vorrei chiarire sempre questo passaggio, perché insomma, ovviamente, ovviamente. No, è che mi devi perdonare, anche visto il clima che c'è, e come dire, il clima di lunghi coltelli che sta girando, c'è anche, insomma, da pensare che siano vendette trasversali o azioni, cioè non possiamo escluderle che ci siano azioni diversive, ecco. Vedremo che cosa succederà. Comunque la vicenda è affascinante. Grazie a Carlo Marroni, collega del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Grazie, e per averci a aiutato a capire. Buonasera. Noi adesso prendiamo una breve pausa, c'è il meteo, ci ritroviamo subito dopo per fare il punto sui mercati, che hanno chiuso in positivo, più 0,36% sul FTSE MIB, più 0,42% sul FTSE All Share, positivo il resto d'Europa, lievemente negativa l'America. UBS, prima di muovervi sui mercati, scegliete il partner giusto. Focus Economia. Le 17:41 minuti e 30 secondi è il momento della borsa. Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Andrea, giornata ancora una volta, come si dice, piuttosto volatile. Le borse hanno oscillato in varie direzioni nel corso della giornata, per poi assestarsi in positivo, anche se non di molto. Sì, certamente la tua lettura della giornata è corretta, c'è stata forte volatilità, direi non estrema, nel senso che comunque le borse sono state piuttosto incerte durante la gran parte della giornata, e questa incertezza è stata confermata anche dal fatto che nonostante un buon indice della fiducia dei consumatori americani arrivato a metà pomeriggio, questo non ha diciamo così contribuito eccessivamente a un recupero consistente dei listini. In generale, probabilmente nella giornata di oggi l'incertezza, il timore sullo stato dell'economia dell'Eurozona, più che concentrarsi sull'azionario che sta a minimi storici, per cui che permetteva un recupero anche tecnico, si è concentrato più sul fronte valutario, tant'è che l'euro è arrivato a scendere anche sotto quota 1,25 nei confronti del dollaro, toccando i minimi degli ultimi 2 anni. Si quota adesso 1,2515 contro dollaro. Per quanto riguarda, vediamo i singoli titoli, i singoli settori, la giornata è stata tutto sommato piuttosto positiva per le banche, se si fa eccezione per il Monte dei Paschi, no? Sì, il Monte dei Paschi sta continuando in un'altalena che riflette, diciamo così, sia le indiscrezioni che l'attesa per quelle che sono gli esiti procedurali, giuridici legati appunto all'indagine in corso sulla questione Anton Veneta, sia anche invece gli esiti industriali, cioè cosa l'azienda dovrà fare per mettere in sicurezza le sue casse, tant'è che insomma si attende il piano industriale della prima parte di giugno, si parla di una vendita di Sportelli Anton Veneta e anche di altre operazioni, però il mercato fondamentalmente in questa forte fase di incertezza sta penalizzando il titolo come non fa per le altre banche, per cui MPS oggi ha perso quasi il 2 e le altre banche sono state quasi tutte positive. Il titolo migliore, i titoli migliori oggi sul listino sono stati Impregilo, che ha guadagnato il 3,5%, e l'Ottomatica il 3,09%. Per quanto riguarda Impregilo, diciamo che il mercato sta iniziando, insomma, così un po' a prendere posizione in vista dell'assemblea di luglio, che diciamo dovrebbe essere abbastanza decisiva per quanto riguarda lo scontro in atto tra Salini e Gavio per il controllo della governance della società, o insomma anche per un controllo azionario nel caso in cui qualcuno decidesse appunto di lanciare un'opera, quindi di provare a tentare la conquista società attraverso un'offerta sul mercato. Per quanto riguarda l'Ottomatica invece la buona performance più 3% oggi è figlia del successo nel contratto per le lotterie canadesi, un contratto importante, è stato ben accolto dal mercato e anche dagli analisti, che soprattutto sono positivi sull'attività della società americana G-Tech e quindi sul business nordamericano di l'Ottomatica. Ti fermo, Andrea, perché andiamo a sentire che cosa succede su strade e autostrade, dopodiché vorrei sentirti su Telecom Italia, che è stato il titolo peggiore sul FTSE MIB, e a proposito di titoli in calo c'è l'Espresso e anche sulla ex o ancora Galassia Ligresti o ancora per poco Galassia Ligresti, tutto questo dopo la viabilità. Focus Economia. :17:48 con Andrea Fontana di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Dicevamo sui titoli in negativo brevemente, Andrea, Telecom Italia e L'Espresso. Sì, per quanto riguarda Telecom Italia, una brutta performance, meno 2%, titolo sotto 0,70, ha toccato anche i minimi degli ultimi 15 anni, dal settembre 97 scendendo a 1,68,60. Due le motivazioni: un settore abbastanza depresso oggi, complice anche il taglio di rating di Moody's su Telefonica, che attraverso Telco è anche azionista di Telecom Italia. Seconda motivazione, più legata a Telecom, la probabile, almeno segnala qualche analista, uscita di Telecom dall'indice Eurostox 50, un indice che raccoglie le blue chip di vari settori europei. Telecom potrebbe uscire da questo paniere alla metà di giugno e questo penalizza Telecom. Invece per l'Espresso una performance molto negativa, meno 7,5, era attesa peraltro dopo l'annuncio della tegola fiscale che è piovuta sull'Espresso, gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società in merito all'esercizio 91 hanno portato a una contestazione di un risarcimento di una cartella fiscale di 225 milioni, l'Espresso ricorrerà in Cassazione, ma chiaramente il mercato ha fortemente penalizzato il titolo come si aspettava. Come si diceva, tutto il gruppo Ligresti, tra l'altro insomma, come sono andate le cose oggi, Andrea? Beh, oggi il mercato si è concentrato molto sulla Milano Assicurazioni, mentre gli altri sono stati Fondiaria Assai, ha guadagnato meno dell'1%, mentre mentre Unipol ha perso il 2,2%. Una grande attenzione invece sulla Milano Assicurazione, più 10%, perché innanzitutto perché non si è ancora sciolto il dubbio della pronuncia Consob sull'eventuale obbligo di OPA da parte di Unipol sulla Milano Assicurazione nel caso in cui andasse in porto questa maxi fusione che comprende Unipol, Premafin, Fondiaria e Milano Assicurazione. E in secondo luogo perché secondo alcuni analisti proprio la Milano Assicurazione potrebbe essere un buon modo per investire nel nuovo progetto partendo da questa compagnia assicurativa che farà parte appunto della cosiddetta grande Unipol. Grazie, grazie ad Andrea Fontana di Radio Cori Il Sole 24 Ore e buonasera. Buonasera. Allora, ci chiedete che cosa ha fatto Unicredit dopo la pausa per il GR. Faremo il punto anche su tutti gli altri titoli di oggi in borsa, ma prima vogliamo riprendere l'argomento europeo. A partire da questa fuga dagli asset in euro per alcuni dei maggiori fondi europei, ne parlavamo poco fa, sulla scia dei timori, anche per l'uscita di una Grecia. Questo è quello che riporta il Financial Times, ma in realtà le cose sono ufficiali. Lo ha fatto Amundi, uno dei maggiori fondi europei, e Threadneedle Investments, un colosso inglese. Hanno ridotto appunto la loro esposizione verso l'euro. Alessandro Aspesi, che è responsabile per l'Italia di Threadneedle, appunto. Buonasera. Buonasera, buonasera Simone. Allora, volevamo sapere innanzitutto qual era la vostra esposizione prima e come siete messi adesso. Direi che sicuramente è indubbio che in questo momento la valuta europea sia nell'occhio del ciclone e di conseguenza la nostra casa di gestione ha iniziato un'attività di sottopeso dell'euro all'interno dei propri portafogli da circa 6 mesi. Abbiamo avuto un'influenza maggiore sui portafogli obbligazionari, in quanto per quanto riguarda i portafogli azionari, ovviamente in ultima analisi investiamo in aziende, quindi l'impatto valutario è meno importante. Dal punto di vista del nostro posizionamento verso euro... Obbligazioni, naturalmente immagino parliate di obbligazioni di Stato. Obbligazioni di Stato, assolutamente. Naturalmente. Diciamo, dal punto di vista dell'euro vediamo ancora degli aspetti negativi che necessitano una azione più concreta. Quindi partendo dalla crisi greca pensiamo che al di là delle prossime elezioni di giugno la situazione sia difficilmente sostenibile e di conseguenza non siamo così convinti che la Grecia continui a far parte dell'unità europea. Di conseguenza un importante effetto... Scusi se la metto brutale, la date per uscita dall'euro la Grecia sostanzialmente o vi preparate a questo scenario in maniera molto intensa? Ci prepariamo in maniera molto intensa, il nostro punto di vista però è molto negativo sulla Grecia, quindi non escludiamo assolutamente che questo paese possa a breve lasciare l'unità monetaria europea. Con degli effetti abbastanza importanti dal punto di vista dei restanti paesi nell'Unione, quindi risultati importanti in termini di prodotto interno lordo, grosse spese di ristrutturazione del debito, grosso peso sopportato dai privati in caso di default e soprattutto anche la stessa Banca Centrale Europea sarà obbligata a contabilizzare delle perdite in bilancio dovuto al default europeo. C'è una stima, per esempio, che Banca d'Inghilterra ha presentato, per il solo Regno Unito si prevede un calo del PIL intorno al 2% qualora la Grecia dovesse uscire dall'ambito. E questo per loro che sono fuori dall'euro? Sì, quindi... sono euroscettici, c'è sempre da considerare il fatto che il mondo anglosassone è sempre rimasto abbastanza scettico sull'ambito europeo. Tuttavia, quello che pensiamo noi è una situazione dove l'euro non arrivi a disintegrarsi, a situazioni anche dove altri paesi possono lasciare, sicuramente però il rischio di scenari di Europa in contrazione sono nettamente superiori rispetto a quello che era 12 mesi fa. Voi non siete usciti però completamente dagli asset in euro come ha fatto qualcun altro, se non erro, adesso vado a recuperare il fondo americano Merck Investments, che proprio non ha più un, come dire, un euro in portafoglio? No, quello che abbiamo fatto noi è su portafogli direzionali, diciamo portafogli che hanno un obiettivo di performance legato all'andamento di un mercato. Prendiamo il mercato obbligazionario globale, siamo fortemente sottopesati. Quello che abbiamo fatto invece all'interno di prodotti a ritorno assoluto è stato quello di prendere anche delle posizioni short sull'euro, cioè abbiamo venduto allo scoperto l'euro per poterlo riacquistare a seguito di una fase ribassista. Quindi da questo punto di vista abbiamo preso una posizione molto molto negativa sull'euro. Quello che pensiamo è che per quanto riguarda lo scenario euro ci possono essere due effetti: un effetto più nel breve termine, dove la possibilità che l'euro possa avere una minima ripresa deriva dal fatto che ci siano degli interventi. Mi scusi, aspetti, io la interrompo, perché dato che l'argomento è interessante, noi abbiamo ancora 15 secondi e poi dobbiamo dare linea alla pubblicità, se no veniamo troncati direttamente. E le chiederei se insomma ci possiamo risentire tra poco, subito dopo il giornale radio, proprio per capire meglio questi scenari. Linea al GR. Focus Economia. Le 18, 9 minuti e 47 secondi. Di nuovo buonasera da Simone Spezia. Intanto lo spread è verso i massimi di giornata a 430 punti, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, il rendimento dei titoli decennali italiani è al 5,66%, e anche di questi temi stiamo parlando con questo tema, appunto, della fuga di alcuni fondi dagli asset in euro, con Alessandro Aspesi, responsabile per l'Italia di Threadneedle Investments, un colosso di Londra, un colosso britannico che appunto è tra i fondi che stanno lasciando gli asset in euro, e ci stava tracciando uno scenario. A me in realtà quello che interessa capire è quello che vedete come scenario di possibile rientro negli asset in euro. Quando parliamo di asset in euro, nella fattispecie, ce l'ha specificato Aspesi poco fa, parliamo prevalentemente e naturalmente dei titoli di Stato, e non stiamo parlando delle singole azioni, sulle quali ovviamente un gestore sceglie titolo per titolo, va a pescare titolo per titolo. Mi interessa molto, Aspesi, capire quale potrebbe essere uno scenario di vostro rientro in questi asset. Vediamo due scenari, differenziamoli nel breve periodo, dove la nostra intenzione è quella di non rientrare nell'euro, e uno scenario di medio periodo, dove invece la nostra intenzione è quella di rientrare ad investire nell'area euro. Nel breve termine quello che pensiamo possa accadere è presumibilmente un intervento politico a garanzia dei depositi o ulteriori aggiunte di liquidità da parte delle BCE. Questo sicuramente stabilizzerebbe il mercato, ma non cambierebbe la nostra visione fondamentale, che è quella appunto di evitare particolari investimenti nell'area euro. Per essere più interessante un nostro rientro nell'euro e quindi avere una posizione strategica di medio e lungo periodo, quello che pensiamo debba accadere è una correzione sostenibile, credibile, realistica, che consenta anche ai paesi periferici di crescere. Tutto ciò ovviamente coinvolge uno sforzo considerevole da parte della Germania, e quindi ci possono essere ulteriori punti di crisi politici interni alla Germania, e tutto questo quindi presumibilmente porterebbe a un livello ancora più basso dell'euro, prima che poi si possa vedere un'opportunità di investimento più strategica e quindi la nostra società rientri ad investire nell'euro. Pensiamo che le dinamiche di breve periodo possono comunque poter invertire la direzione, costringendoci ovviamente anche a variare le nostre posizioni, ma tali decisioni saranno semplicemente tattiche, cioè semplicemente di breve periodo. Quello che pensiamo possa essere un punto di ritorno stabile nell'area euro è proprio un intervento sostenibile, credibile, realistico, soprattutto coinvolgendo i paesi periferici e la relativa crescita. Grazie ad Alessandro Aspesi, responsabile per l'Italia di Threadneedle Investments, per averci dato questi chiarimenti, e buonasera. Buonasera, arrivederci. Allora, su questo tema, sul tema della Grecia, ci sono un po' di domande, no? Ci scrive Paolo: tutte stupidaggini, la Grecia vale quanto il Veneto. Ma insomma, sarà pur vero questo, però è vero anche innanzitutto che le banche tedesche e francesi sono assai esposte verso la Grecia. E poi, come si diceva anche con Moria Longo, lo ricorderete la settimana scorsa, diceva: il problema è anche che se esce la Grecia vuol dire che dall'euro si può uscire. E quindi gli investitori, i mercati potrebbero iniziare a scommettere su quale sarà il prossimo paese ad uscire dalla Grecia. E quindi, in sostanza, potrebbero iniziare in maniera ancora più energica rispetto a quello che fanno adesso a... come dire, far pesare tutto questo sui titoli di Stato dei paesi cosiddetti periferici, innescando una spirale. I rischi sono evidentemente questi, e mi sembra che tra l'altro la persona che abbiamo appena sentito ce l'abbia espressi abbastanza chiaramente. Sentiamo che cosa succede su Strade e Autostrade, ci ritroviamo subito dopo. Focus Economia. Le 18, 15 minuti e 44 secondi, vi devo qualcosa, ossia un quadro di come sono andati anche gli altri titoli in una giornata di borsa che ha visto il FTSE MIB guadagnare lo 0,36% e il FTSE Share lo 0,34%, di Impregilo e Lottomatica si è già detto, guadagna oltre i 3 punti percentuali, oltre i 2 per Buzzi, Unice e Mela Popolare Emilia Romagna, Generali un guadagno dell'1,87%, Tenaris l'1,22%, Enel un punto percentuale, poco meno Luxottica ed Exor, Mediolanum, Intesa San Paolo e UBI Banca guadagnano poco più dello 0,7%, Unicredit lo 0,64%, mezzo punto percentuale o poco più di guadagno per Parmalat, Fiat e Autogrill, poco meno per Azimut, lo 0,3% lo guadagnano il Banco Popolare, Salvatore Ferragamo, Saipem, Campari e Atlantia, e nel Green Power lo 0,2%, praticamente in pari, uno 0,19% per Eni, così come per Ansaldo, più 0,17%, TOTS più 0,13%, più 0,07% per Terna, Snam più 0,06%, la Popolare di Milano più 0,03%, frazionalmente giù anche Finmeccanica di Assorin, mentre Mediobanca, Prismian e A2A cedono lo 0,35%, lo 0,46% Mediaset, lo 0,93% Pirelli, Fiat Industrial giù dell'1,42%, ST Microelectronics di un punto e mezzo, il Monte dei Paschi, come si diceva, quasi 2 punti percentuali, così come Telecom Italia. L'euro quota in questo momento 1,2513 contro dollaro. Ebbene, si diceva su chi potrebbero puntare eventualmente gli investitori se la Grecia uscisse dall'euro, su quale sarà il prossimo, molti iniziano già forse a puntare sulla Spagna. Molta confusione sotto il cielo oggi, soprattutto sotto il cielo della Catalogna, perché dopo aver detto la Catalogna, appunto, regione autonoma, lo ricordiamo, dopo aver chiesto aiuto a Madrid sul debito, siamo a corto di liquidità, ha chiesto aiuto naturalmente al governo di Madrid, non ci interessa come faranno, ma alla fine di questo mese dobbiamo fare dei pagamenti, ha detto il presidente catalano Artur Mas, un'economia non può riprendersi se non paga i debiti. Di poco fa la marcia indietro, comunicato ufficiale, non abbiamo mai detto questo, è un fraintendimento di alcune agenzie di stampa internazionali, la Catalogna onorerà i suoi impegni sul debito e seguirà strettamente il suo programma finanziario. E poi c'è Bankia, il colosso bancario parzialmente nazionalizzato. Poco fa il Financial Times ha scritto che potrebbe aver bisogno di 19 miliardi di euro freschi. E da dove arrivano questi soldi? Naturalmente dal governo, dallo Stato, che non è che ne abbia un granché per sé. Luca Veronese del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Luca, aiutaci a far chiarezza. Io inizierei dalla Catalogna perché la cosa che ha spaventato di più i mercati, in particolare dal lato valutario, quando questa notizia è stata diffusa. Che cosa è successo? Hanno frainteso le agenzie di stampa internazionali? Beh, c'è poco da fraintendere, nel senso che anche avessero capito male o avessero malinterpretato le parole del presidente catalano Mas, e lo stato dei conti, le situazioni di bilancio delle regioni autonome spagnole è disastroso, e questo è un fatto. È un fatto grave, e come è grave, e si sa, lo sanno i mercati, che alcune regioni, non la Catalogna, ma penso alla regione di Valencia o all'Andalusia, per finanziarsi sui mercati e quindi per trovare risorse per rifinanziare il debito, pagare la sanità, pagare le scuole, pagano interessi che sono più alti di quelli che al momento pagano Portogallo e Grecia, che sono già stati messi sotto protezione e già salvati dalle istituzioni internazionali. Quindi la situazione dei conti è realmente molto grave per le regioni autonome. Poi probabilmente si innesta in questa situazione anche un problema politico. La Catalogna e l'Andalusia nel sud della Spagna sono le uniche due grandi regioni che non sono governate dal Partito Popolare di Mariano Rajoy, che è al governo a Madrid, e quindi può essere, anzi è quasi sicuro, che c'è un braccio di ferro tra la Catalogna governata dai partiti autonomisti e il Partito Popolare al governo a Madrid per fare in modo che qualcuno paghi alla fine del mese i conti. Quindi anche una questione di tensione politica interna, sostanzialmente. Sicuramente sì, anche se appunto i conti sono fuori controllo per la Catalogna, e i tagli richiesti dal governo centrale sono molto difficili da applicare, e ricordiamolo, le regioni controllano la totalità della spesa per l'istruzione e per la sanità. Quindi sono anche costi e spese sociali difficili da contrarre, da comprimere nel giro di qualche mese. E soprattutto in una situazione nella quale l'austerity marcia già da un po' di tempo e la recessione fa sentire il suo morso, immagino. Cioè, ridurre queste spese in questo momento deve essere particolarmente complicato. Certo, se pensiamo che con il governo Zapatero negli ultimi 2 anni sono state fatte manovre per un 50 miliardi di euro totali, e Rajoy per questo 2012 ne ha già prevista una manovra complessiva che è vicina ai 50 miliardi, cioè sono numeri esagerati, grandissimi per un'economia che non cresce, che sarà in recessione, è già in recessione e che probabilmente si contrarrà anche più del 2% in quest'anno, e l'anno prossimo staremo a vedere. E l'austerity, appunto, e la mancata crescita dell'economia fa in modo che i bilanci pubblici siano totalmente in questo momento deficitari. Questo è chiaro, soldi che vengono richiesti, che probabilmente saranno richiesti dalle regioni, e soldi che quasi certamente verranno richiesti dalla banca nella fattispecie, e parliamo di Bankia, che è già stata parzialmente nazionalizzata, nata nel dicembre del 2010 dalla fusione di 7 istituti finanziari spagnoli. Come si diceva, è stata parzialmente nazionalizzata e adesso potrebbe essere nazionalizzata completamente, con un innesto da 19 miliardi di euro addirittura. Queste sono le dimensioni, Luca. Sì, Bankia è la quarta o terza, secondo la classificazione banca, per capitalizzazione del paese, della Spagna, ha il 10% dei depositi complessivi di tutto il paese, ed è sicuramente la banca più esposta e quindi anche più a rischio per l'esposizione sul settore immobiliare. Sappiamo che in Spagna c'è stato il crollo del settore immobiliare che ha disastrato gli attivi di bilancio di tutti gli istituti di credito. Per Bankia la situazione è ancora più grave, perché è nata dalla fusione di 7 case di risparmio che già non stavano bene, e allora il governo di Zapatero pensava così, mettendo assieme diversi mali, di riuscire a creare una situazione migliore. Invece il malato si è aggravato e la situazione è andata più. La quotazione in borsa è stata fallimentare, il titolo ha perso quasi il 70% da quando è stata quotata nel luglio dell'anno scorso, e continua a perdere. È stata sospesa la quotazione questa mattina, appunto, in vista di un CDA, di un consiglio di amministrazione, che dovrà decidere quante risorse servono per risanare finalmente il bilancio di questa banca. Brevemente, Luca, si parla anche di fuga dei risparmiatori da Bankia in questo momento. Circolano indiscrezioni su questo o notizie certe? Allora, già nelle scorse settimane si era diffusa questa voce. Di sicuro nell'ultimo trimestre si sa da dati societari che 1 miliardo di euro sono usciti da Bankia, di depositi e quant'altro. E nell'ultima settimana si era diffusa la voce che addirittura in 7 giorni un altro 1 miliardo di euro se ne fosse andato. La società ha smentito, il governo ha smentito. Però è evidente che la società, la banca è sotto pressione e che anche la nazionalizzazione non sembra risolvere granché. Grazie a Luca Veronese, collega del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Luca, buonasera e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi. In chiusura vi vogliamo far ascoltare uno dei passaggi dell'intervento di ieri, dell'intervista di ieri del Presidente del Consiglio Monti a Piazza Pulita. Dice Monti: se salta un paese è un problema per tutti, se mai l'Italia fosse fuori dall'euro sarebbe un problema per la Germania, e ha riassunto in una sorta di lettera ad Angela Merkel. Sentiamo. Cara cancelliera, voi siete un paese disciplinato, avete questo grande pregio, e noi siamo gli altri paesi d'Europa, chi più chi meno. Noi in questo momento siamo nel chi più, abbiamo capito che è nel nostro stesso interesse e dei nostri figli e delle future generazioni diventare disciplinati anche noi, lo stiamo facendo. Ma se succede una esplosione finanziaria come per esempio la crisi greca, per quanti sforzi l'Italia, la Spagna, la stessa Francia facciano, e mi permetta di dire che l'Italia per molti aspetti oggi è più avanti, certamente della Spagna, ma anche della Francia, quanto a ristrutturazione della propria economia e disavanzo di bilancio, saranno sforzi vani se nasce una sfiducia nell'euro. Perché se gente ha sfiducia nell'euro, evidentemente avrà particolarmente sfiducia nei titoli di quei paesi che sono espressi in euro, come lo sono tutti per i paesi dell'eurozona, ma in più di paesi nei quali lo Stato ha un grosso carico di debito accumulato nei decenni passati. Per cui se uno di questi paesi salta sotto la pressione del contagio, è un problema per tutti. Se per esempio l'Italia dovesse un giorno uscire dall'euro e quindi riacquistare con una propria moneta autonoma la libertà per quanto riguarda il tasso di cambio, e quindi la nuova lira si svalutasse rispetto all'euro e quindi al marco che sta dentro e sotto l'euro, sarebbe un grosso problema per le esportazioni tedesche. Naturalmente sarebbe un grosso problema anche per l'Italia. Prima di chiudere, da segnalare a proposito di dati, il PIL dell'Italia nel primo trimestre, il peggiore tra i paesi del G7 secondo l'OCSE, un calo dello 0,8%. E in chiusura una notizia appena battuta dalle agenzie: la Presidenza del Consiglio ha varato il decreto che definisce modalità e termini della separazione di Snam da Eni, che dovrà cederne il 25,1% alla Cassa Depositi e Prestiti. Ed è veramente tutto, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Paolo Corleone in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, buonasera. Radio 24, la passione si sente.